24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani. Cioè. L'ha capita? Adesso farò un master in bersanese. Siamo qui, buongiorno cari ascoltatori, sono le 6:34 minuti, è venerdì, chiudiamo la settimana. Quante notizie oggi vi devo dare? Oggi sto leggendo i giornali, sto ridendo da mezz'ora, più o meno, tre quarti d'ora anche. Allora, come avete passato San Manettino ieri? Chi lo sa, è sempre il momento del consiglio? Sì, il consiglio. But please relax. Come sempre, apriamo il nostro bar condicio. Che per l'ultimo giorno della settimana apre e offre sempre Nicole Minetti. Il caffè volentieri a tutti quanti. Ovviamente, Nicole Minetti offre. E come dire, ma qui notizie dai giornali. Voglio salutare Vincino, buongiorno, con direttore del Male. Vincino, ti presento una collega, Silvia Brasca, del TG della 7. Buongiorno Silvia. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, San Manettino, come l'avete passato? San Manettino. Silvia Brasca avrà fatto, credo, 500 servizi per seguire tutte le manette. Seguiva le manette, no? Mentre per tutta Italia. La giornata è complicata, ce ne sono poche di giornate come queste. Sì. Poche, dense, non so come farai tu a fare la rassegna stampa tra un po'. È così. Basta prendere i giornali a forma di manetta, metterli così e leggere più. Ieri io nel dubbio, Vincino, hanno citofonato a un certo punto alle 8 di sera, io non ho aperto. Perché ho detto, questo è un ufficiale giudiziario, sicuramente mi deve portare qualche brutta notizia, perché... Vai a aprire quando suonano. No, arrestavano tutti ieri, bastava stare, respirare e arrestavano tutti. Hai comprato un quotidiano? Se non hai comprato un quotidiano stai più tranquillo. No? Ah, vabbè, la cosa più divertente è quello si compra il quotidiano pubblico e passa, il giorno dopo arrestato. Quanto conta avere un quotidiano in Italia? Questo è Proto. Che ha comprato pubblico il giornale che aveva fondato Luca Tedese, che poi ha avuto vicissitudini. Appena l'ha ricomprato per farlo riuscire, è stato subito arrestato. Ma non è stato lui. Sarete un eroe dell'indipendenza della stampa. Cos'è che è un eroe? Chi non ho capito che hai detto. È un eroe perché lui fonda un giornale di estrema sinistra e pam, dopo che è fallito subito lo rivende all'estrema destra. Ecco. Però insomma, nel giorno in cui hanno arrestato più o meno tutti, attenzione, hanno intercettato Francone Fiorito. Silvia, te lo ricordi? Francone Fiorito. Come dimenticarselo? Lui è l'unico che dice la mia carriera politica non è mica finita. Intanto sentite Fiorito sul carcere. Come è passato questi mesi? I mesi in carcere sono stati terribili, nel senso che è un luogo dove la dignità umana è veramente distrutta e calpestata. I domiciliari sono più gradevoli, però la mancanza della libertà è sempre qualcosa di violento. Questo in carcere, sentite ancora Fiorito, la mia carriera politica, ma non è detto, vediamo. Non penso in alcun modo alla campagna elettorale. Ecco, ma guardando la campagna elettorale... La mia vita attuale. No? La sua vita in politica guarda. È finita? Momentaneamente assolutamente sì. Poi spero che un giorno quando venga stabilita la verità, ma di questo ecco... Ecco qua, Silvia Brasca, insomma, è l'unico che pensa di poter tornare in politica nel giorno degli arresti. È una nemesi straordinaria questa, Lui è davvero un personaggio e ricordiamoci che diciamo dal caso Fiorito sono iniziate tante cose che finiscono direi e non finiscono ancora in Liguria, come tu bravissimo sempre insisti leggendo Il Secolo e riaggiornandoci su quella vicenda che è secondaria e mani sul volante leggiamo oggi anche della regione Lombardia c'è qualcosa davvero che altro che le ramazze di Maroni. Guarda che tra l'altro sulla regione Liguria ce n'è una, perché io, ecco Vincino, questa la devo dire. Sì. Intanto prima Vincino, un commento su Francone Fiorito, che è l'unico in Italia, l'unico, buon per lui, che non è dimagrito in carcere. Non so se l'hai visto, perché... In carcere si ingrassa, tutti pieni di grassi, di cose, non, è difficile tenere la dieta. Come in carcere si ingrassa? Fai come Beppe Grillo che dice che sono degli hotel a 5 stelle con le terme. No, ecco, sulla regione Liguria ce n'è una. Io, ecco, questo si stavo rischiando di inciampare dalle risate, perché sentite la giustificazione di Matteo Rossi, che è l'assessore alla regione per lo sport e il personale, quando gli hanno detto: scusi, le sue pezze d'appoggio, i suoi giustificativi, gli scontrini. Si è battuto in fronte e ha detto: voi non sapete che è successo ai giornalisti. È esploso un boccione d'acqua nell'ufficio e mi ha sommerso tutti gli scontrini e le pezze d'appoggio. Ma questa è veramente ma è da premio Nobel. Ma come si... Il boccione d'acqua sulle fatture, Vincino! È stupenda, ma in Liguria sono stupendi. Come quell'altro assessore che è beccato, che aveva assunto i figli, ha detto: ma erano disoccupati, poveretti, che non ho 20 anni. Sì, no? Sì, sì, e lo potevo fare, l'ho fatto. E l'ho fatto, certo. Poi attenzione, perché continuiamo, appunto, prima Silvia Brasca diceva il capogruppo in Lega, no? Della Lega in Lombardia. Il capogruppo della Lega in Lombardia, Galli, ha dato un incarico a suo genero, al marito della figlia, 196.000 euro per un anno. Questo signore, tra l'altro, ha la terza media, 196.000 euro in un anno. E poi... la famiglia. Eh sì, prima la famiglia. E poi c'è Bolzano, attenzione, Luis Durvalder, sì, è il presidente della provincia di Bolzano. Gli abbiamo comprato, secondo la procura, con i nostri soldi, il canone Rai, gli abbiamo pagato yogurt, frutta, assicurazioni, fazzolettini Tempo, lucido da scarpe, ombrelli, caramelle, scatole da aspirine, Aulin, mazzi da fiori, spumante, permessi per la caccia. 10 schiaccianoci, no Silvia, gli schiaccianoci, aiutami tu. Sono i padernini, lo sai, lei, insomma, che lui con la segretaria teneva il quadernino di tutti, sì, gli schiaccianoci, i quadernini, e lì è segnato tutto. Ma lui ha anche una giustificazione abbastanza pittoresca, perché era come il rientro con spese altre di spese, sì, politiche, insomma, ognuno gli schiaccianoci. Ma gli schiaccianoci, ma poi sai quanto sono costati 10 schiaccianoci? 1250 euro. Uno schiaccianoci d'oro artigianale, grande schiaccianoci. Il campanaccio per pecore, Vincino, abbiamo pagato il campanaccio per pecore al presidente Durvalder. È fondamentale nel Sud Tirolo, nel Sud Tirolo, certo. Qui ci vuole da evocare il nostro Oscar Giannino tutta basta, la vita. Basta È così, ma qua non finisce mai. Allora vi voglio far ascoltare due cose. Prima Berlusconi, che tiene banco su tutti i giornali, la questione delle tangenti, noi approfondiremo anche alle 8.30. Sentite Berlusconi ieri da Agorà di fronte a un basito Andrea Vianello, che insomma diceva: ma presidente, ma come? Ma le tangenti, sentite. Eni e le Finmeccanica trattano con altri paesi per vendere i loro prodotti, devono adeguarsi alle condizioni di quel paese. Nelle democrazie normalmente si fa soltanto la gara d'appalto, in paesi che non sono complete e perfette democrazie ci sono altre condizioni che bisogna accettare se si vuole vendere il proprio prodotto a quei paesi. Anche se sono illegali? Ma sono illegali per loro, non per noi, perché noi mettiamo in conto quello che dobbiamo spendere, tot per l'appalto e tot per esempio per costruire un ospedale o una scuola richiesta dal Presidente della Repubblica con cui stiamo trattando. Se sono stati commessi dei reati la magistratura... Ma non sono reati, si tratta, scusi, di pagare una commissione a qualcuno di quel paese, perché quella è la regola di quel paese. Vogliamo non pagare commissioni e allora stiamo a casa e non vendiamo più niente. Oh, eccoci qua. Silvia, qua o si vende o si vuole andare all'estero e ci si adegua. Non ha mai usato la parola tangenti, no? Però dice bisogna fare una scuola, un ospedale, un... questo. No, io non si... Insomma, commentiamo proprio in modo anche filologico, e secondo me ieri mi si sono drizzati i capelli in testa con la storia delle democrazie complete e incomplete. Qua in ballo c'è l'India, e ricordiamoci che è un momento delicatissimo dei rapporti tra Italia e India, paesi tra l'altro orgoglioso, per cui abbiamo due Marò che sono ancora lì, sì. Ecco, e quindi insomma, prima di dare di democrazie incomplete a un paese bisogna stare attenti, vero che non l'ha nominato, però si parlava di quello, Finmeccanica, Finmeccanica è l'ultimo e ci abbiamo l'Algeria, ecco, in ballo ultimamente, quindi già questo, sul resto io non... mancano sempre un po' le parole ultimamente, ecco, mancano le parole e comunque penso che non siano cose dette in libertà, ci sia dietro, insomma, sa che è qualcosa che un mondo dell'imprenditoria ce l'ha come pensiero, come no, ma tra l'altro io ho parlato ieri con qualche amico che lavora appunto anche, va all'estero eccetera, e dice ma insomma dai, fuori dai denti, ma si sa che è così. Cioè, se tu vuoi lavorare in certi paesi, non li nomino in questo caso, cioè o fai così oppure non lavori. La differenza tra l'Italia e gli altri stati è che gli altri stati magari lo pianificano con i servizi segreti, e viene tutto fatto in maniera, come dire, ufficiale. E se no, come dice Berlusconi, ma no, beh, stattene a casa e non lo so, che dobbiamo fare, Vincino? Armamenti, elicotteri, navi, non abbiamo mai venduto nulla. Dal Medio Oriente e nell'Oriente senza versare soldi. Ma senza noi avevamo per l'Iran addirittura un re che trattava gli elicotteri. Il re. Chi è? Chi era? Quello nostro. Il re che trattava quello gli elicotteri. Quello nostro là, quello lo sparatore di cavallo, l'ammazza tedesco. No, l'ammazza tedesco. Ma che re, ho capito a cosa ti riferisci, ma non nominiamolo neanche, che poi ci parte una querela che inizia adesso e finisce tra un mese. 24 mattino. Milan, ti prego, fai un appello al presidente Napolitano affinché faccia un'amnistia o un indulto preventivo. Altrimenti il 24 febbraio le schede saranno piene di punti interrogativi. Vedo gente disperata che non sa più chi santo votare perché il suo candidato il giorno prima è stato inquisito. Ti prego, fai presto. Signor Berlusconi, preferisco votare Giannino vestito da pagliaccio che un pagliaccio come lei. Dai Silvio, scendi in campo, c'è un posto libero in Vaticano. Potresti diventare Papa Pio Tutto. Dai, così puoi restituire agli italiani i soldi che prendono in chiesa con le offerte. Vai Pio, vai Pio Tutto. A tutti i politici, ci vedremo in Parlamento. Sarà un piacere. Deliziosa questa segreteria. Volevo fare un appunto sulla scenetta di Berlusconi con la ragazza. Ma a quell'età, ma dove volete che vada? Della serie Silvio rimembri ancora? Grazie. Ciao, sono Bruno, sono calmissimo e come tutti gli italiani dico che sono sfiduciato, non so chi votare e mi sa che quest'anno metterò veramente sulla scheda elettorale viva la, per non citare l'obolo, dirò il viva il pelo. E pongo anche un altro quesito, come mai in Italia ci danno sempre le matite per votare e non una penna birra, visto che spendiamo tanti soldi per le elezioni? Ci sarà qualche motivaccio? Il motivaccio, siamo con Silvia Brasca del TG della 7 con Vincino, siamo ancora a questo, scriverò, Silvia, questo vuol scrivere viva, vabbè, Vincino vuol scrivere viva la... Siamo alle matite noi, matite come? Oh, adesso sì che si sente, che si sente Vincino. La risata di quello lì, ci vediamo in Parlamento, mi inquieta. No, però volevo sapere da Silvia Brasca, insomma, viva il... C'è quella in segreteria che dice scriverò viva la... Viva il... Siamo ancora a questo, no? All'epoca c'era, si scriveva il politico, che non nomino, maiale. Oppure c'era... Ma era vero quello che ha messo la fetta di mortadella? Magnatevi pure questa nell'urna. Si tramanda, dovremmo chiedere agli scrutatori, che tra l'altro ho saputo che più o meno in tutta Italia... c'è stato un boom di iscrizioni agli albi elettorali. Per prendere... Sono 70 euro che in due giorni, certo. Ed è il 20% di uno stipendio medio di 1000 euro. C'è stato davvero domande triplicate, con anche problemi per capire chi lo farà. C'è chi darà ha dato la precedenza ai disoccupati, il sorteggio, insomma, anche su quello poi i grillini hanno avuto da dire. E chiaro, insomma, sono due giorni di entrate, insomma, di soldi. Sì. Allora, visto che ha parlato, c'è un ascoltatore e un'ascoltatrice anche, ha detto: ma dove vuole andare? Silvio rimembra ancora, insomma, questa vicenda. Sentite, Berlusconi ieri è intervenuto ancora sulla scenetta con i doppi, tripli e quadrupli sensi con la signora di quell'azienda, Green Power. All'inizio c'è stato un momento che viene chiamato nella retorica di captatio benevolentiae, di ricerca di attirare la simpatia e l'attenzione del pubblico. L'azienda ha fatto venire sul palco questa signorina che mi ha sottoposto un contratto che vabbè, poi racconta Vincino la captatio benevolentiae era, ecco cos'era, captatio benevolentiae, già a saperlo, no, non era maestro, è un maestro, guarda, non possiamo fare altro che star qua, sì, assolutamente, poi peraltro era una signora, però qua sbaglia, signorina, dai, sono sopra i 18 anni, sono tutte signore, cioè, per lui sono tutte signorine, però anche a 80 anni, vabbè, come dire, no, Io pensavo una cosa, però ci vorrebbe un Renzi per la Chiesa. Tu immagini un papa di 30 anni, di 35 anni. No, dai. Ma guarda che l'impresa fu iniziata da uno che aveva 33 anni. Oh, sì, ho capito. È durata 2000 anni, però. L'impresa. L'impresa. Attenzione, proprio visto che hai detto l'impresa. Oggi il Sole 24 Ore dà questo dato. Sapete quanto vale il patrimonio immobiliare della Chiesa in tutto il mondo? Date una cifra. Silvia forse mi ha letto su Twitter, mi frega, Silvia Brasca, dai. No, perché non ci credevo. Allora non vale, non puoi rispondere. Vincino, dai una cifra. No, qua. Non lo so. Quanto dai una cifra, pensa al debito pubblico italiano. Tra l'altro, il triplo. No, ti do 2000 miliardi di euro. Venduta male, sono sicuro, d'accordo, in tutto il mondo. No, che tra l'altro veramente, se uno mi è venuta un'ideona venerdì, uno espropria tutto, 2000 miliardi, sistemiamo. Apriamo ospedali, no, il debito pubblico, pubblico. Italia, perché la malaria nel terzo mondo, scusami. Ma il debito pubblico è 2000 miliardi, ma sembra la Chiesa non può lavorare solo per l'Italia, c'è il mondo, ecco, siamo rispettosi. Ho capito, ma sembra fatta apposta la cifra, 2000 miliardi. È fatta lì apposta. Basta fare una firma, espropriare tutto, e noi, vendere. Noi siamo a Radio 24, la cifra non possiamo mettere in discussione, perché è vera. lo dice il Sole 24 Ore, quindi è la nostra Bibbia, quindi la vostra impresa. Esatto. Allora sentiamo anche sempre Di Pietro, vogliamo sentire Di Pietro che ce l'ha con Monti. Sentite il proverbio di Di Pietro da Mirta Merlino ieri. Le faccio sentire Monti cosa ha detto l'altra sera. Lui, TG di Mentana su questa cosa. Si dice parla in pizza e sputa torta. Traduci in italiano. Parla in pizza e sputa torta. Bene e ti frega sotto. Ecco, questo Silvia Brasca è la traduzione. Parla in pizza e sputa torto. Lui è così. Io l'ho conosciuto dal 90, lo conosco proprio dal 92. Tra l'altro ieri ti ha arrestato? Ti ha mai arrestato? No. No. No, va bene. Per carità. No, è proprio così, è sempre stato così. Certo, in campagna elettorale sa anche lui dove arrivare con questo ognuno, cioè, non c'è niente da fare, la campagna elettorale alla fine li mette a nudo, esattamente una delle cose più trasparenti che ci siano, alla fine sono quelli lì. Secondo me si divertono anche. Io una cosa non ho capito, la par condicio è che ogni giorno da tutti i televisori hai leader da tutti i lati che ti assalgono. Guarda, lascia stare che c'è sempre l'Agicom qui, l'autorità del garante. Ma dove sta l'Agicom? Ma ci dormono io so che ci dormono sul zerbino di casa, qua è un disastro ogni giorno. Non esiste la par condicio. Prima c'erano quelle cose, tribune elettorali noiosissime, no. È un assalto da tutti i lati a qualsiasi ora del giorno, mentre quelli dappertutto in tutte le trasmissioni vedi sì, apri il frigorifero, sempre, ti esce Monti, apri, sì, così. Monti sempre, del, cosa sei, tutti sempre. Tutti sempre, tutti questa sempre. Forse questa è la par condicio, tutti sempre. Un incubo. Adesso Monti lo incontriamo anche a Giardinetti col cane, quindi non si può avere neanche quei 5 minuti. È vero, Empi. Li troviamo tutti a Giardinetti col cane. Il cane Empi, comunque io voglio fare un appello, c'è il nostro contadino di Terni, l'abbiamo spaventato, si dice che sia spaventato, non vuole più intervenire. Io faccio nuovamente un appello, Angelino, il nostro contadino di Terni, fatti trovare, vieni da noi, è colui che ha evocato la zappa per i politici. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a Zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro, e a cena una minestra scunnita. Questo hai evocato per i nostri politici, e hai evocato di più, cari Vincino e Silvia Brasca. Signore Milan, che potremo fare qui? Manco Santo Giuda, lo padrone delle cause aperte, ci serve più. La zappa non basta più, la mazza da 10 kg e spacca la pietra sulla cava. Ecco, questo devono fare. Eccolo qua, Vincino, questo non però l'abbiamo spaventato, non interviene più, non sappiamo dov'è. Una saggezza antica. Una saggezza straordinaria. Io voglio andare a conoscere il boccione che si è rotto, pieno d'acqua, nella stanza dell'assessore. Ma quanto era grande? Ma che ne so, un'alluvione, nell'alluvione, cioè si è rotto il boccione proprio sulle fatture da presentare. Ma guarda te la sfiga, ogni tanto ci vede benissimo. Che nel computer non avevano nulla. No, niente, tutto sulla carta. Tutto carta. Queste sono le nostre regioni. Vi saluto, vi ringrazio, Vincino e Silvia Brasca. Grazie. Ciao. Silvia Brasca la trovate sul TG della 7. Oggi deve fare 50 servizi per tutti gli arrestati. A domani, a dopo. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci allora a leggere i giornali, cari ascoltatori, sono le 7:20 minuti, ben ritrovati. Vi ricordo che avremo ospite oggi il sindaco del Movimento 5 Stelle di Mira, quel paese dove c'è questo giallo per un assessore che è stata allontanata perché è incinta. Sarà con noi Alvise Maniero. E poi di che parleremo? Beh, parleremo di quello che sono gli arresti, le manette, è tornata Tangentopoli, basta leggere i giornali ed è tutto un profluvio di inchieste giudiziarie. Lo faremo con Piero Stellino, che sarà con noi, e Bruno Tinti, ex magistrato. Questo alle 8:30, ora andiamo a leggere appunto i quotidiani. È venerdì 15 febbraio. I titoli, il Sole 24 Ore apre sul PIL, l'Europa frena, Italia in caduta, questo è il titolo di apertura per il Corriere della Sera, e qui si inizia la carrellata di titoli dedicata alle vicende giudiziarie. Finanza e scandali, il giorno degli arresti, Repubblica, il ritorno di Tangentopoli, La Stampa, il giorno degli arresti eccellenti. Il Messaggero, tangenti, ondata di arresti, il Fatto Quotidiano, la retata di San Valentino, che tra l'altro su Twitter girava San Manettino, ribattezzato così. Il Giornale, la Repubblica delle manette e degli orrori giudiziari. L'Unità, il Cavaliere legalizza la tangente. Libero, si vota in manette. Il Secolo sceglie l'apertura invece su Pistorius, il dramma, insomma la tragedia e l'accusa di omicidio della fidanzata, il tradimento di Pistorius, questo è il titolo di apertura, mentre Avvenire, cresca il vero concilio, ancora l'apertura su Benedetto XVI, ai parroci di Roma, nascosto al mondo, sarò sempre con voi. Però, cari ascoltatori, oggi rischiate di spaccarlo quel volante, io lo so, e quindi l'appello a tenere le mani ben salde sul volante, senza gesti di stizza, senza gesti di rabbia. Poi magari quando vi fermate al semaforo potete così un pochino arrabbiarvi, ne se è il caso. Come al solito, se bevete il caffè appoggiate la tazzina, se vi state facendo la barba fermatevi un attimo col rasoio, perché vi devo dare delle notizie sui giornali, qualcosa abbiamo già anticipato alle 6.30 che sono incredibili. Cominciamo dal Corriere della Sera, andiamo a Bolzano. Soldi pubblici in aerei e yogurt, 17 anni di spese di Durnwalder. Racconta Andrea Pasqualetto a pagina 17, la Corte dei Conti ha chiuso un'inchiesta su 17 anni di spese del presidente della provincia autonoma. Eccola qui la lista contestata per un totale di 1.600.000 euro. Le spese contestate a Durnwalder, l'ICI sulle sue abitazioni, cioè con soldi pubblici, il canone RAI, la quota all'albo dei giornalisti, 1.510 euro di biglietti aerei a favore di Angelica, la sua attuale compagna, il fondo pensione per Aike, la precedente compagna, le bollette e l'ICI per Gerda, l'ex moglie, quindi insomma anche tutte cose legate agli affetti. E poi yogurt, frutta, assicurazioni, fazzolettini, lucido da scarpe, ombrelli, caramelle, scatole d'aspirine, Aulin, mazzi di fiori, spumante, permessi per la caccia, 10 schiaccianoci per 1.250 euro, un campanaccio da pecore, un bersaglio con inciso il suo nome regalato agli Schützen per 4,3 milioni di lire, di vecchie lire, un ritratto fotografico personale pagato nel 97 un milione di lire, una foto gigante di lui vestito da Schützen fino al recente ritratto della figlia più piccola fatto dall'artista Siegfried Treuer pagato 3.500 euro. Insomma, migliaia di acquisti, decine di pagine dal 95 al 2012 contestati. Poi dico mani sul volante, tenete le ben salde le mani sul volante, rimaniamo sul Corriere della Sera dove a pagina 6 Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella spulciando tra le spese della regione Lombardia, in questo caso della Lega, la Guardia di Finanza ha trovato che cosa? Il capogruppo leghista e la consulenza al genero operaio. Stefano Galli, che era già stato accusato di avere fatto rimborsare un pranzo di nozze della figlia, credo, e poi il banchetto di nozze, una festa privata pagata con due assegni dallo sposo, ma il cui costo era stato rimborsato dalle casse della regione. Galli ha detto che è stato un errore, aveva rimborsato tutto, aveva ridato tutto, ma ora si scopre che lo stesso Galli avrebbe dato una consulenza, ha dato una consulenza al genero, il fidanzato della figlia. Una persona che scrivono Ferrarella e Guastella alla terza media e fa l'operaio a 1.200-1.500 euro al mese, ma che a dispetto del profilo non proprio accademico ha ricevuto un compenso di 196.000 euro lordi pubblici, affidatogli per 19 mesi con una consulenza per la valutazione dell'attività legislativa attinente ai rapporti tra regione ed enti locali, con particolare attenzione alla provincia di Lecco, a supporto dell'attività del consigliere Stefano Galli. È suo genero, consulente del capogruppo leghista per questa motivazione. Compito titanico si è affidato a chi ha la terza media, ma redditizio meno di 20 ore al mese, senza vincolo di orario, di modalità di esecuzione, di luogo, stando ai contratti di collaborazione stipulati col Consiglio regionale, e con anche delle spese con compensi aggiuntivi di 12.600 euro esclusivamente per il mese di febbraio 2010. Cioè 12.600 euro per un mese, e 20.000 euro solo per il mese di dicembre 2012. Eccolo qui, un totale di 196.600 euro lordi contestati al capogruppo della Lega per questa consulenza a suo genero. Non è finita, perché come in un vero climax arriviamo al top, al meglio del meglio, letto dal secolo XIX, che continua questa inchiesta sulle spese pazze della regione Liguria. Tra l'altro, spese troppo pazze, l'unica che è stata trovata è questa, l'ultima che è stata trovata è questa. Il gruppo PDL alla regione Liguria nel 2012 ha speso in 9 consiglieri 30.000 euro in francobolli, 30.000 euro in francobolli. Ma gli scontrini dell'assessore Matteo Rossi di SEL, fresco assessore della giunta Burlando, dunque la regione Liguria, per lo sport e il personale, davvero sono al centro di una scenetta da Totò. gli scontrini dell'assessore sotto l'acqua. Guarda i casi della vita, scrive Il Secolo. Appena la commissione rendiconti ha finito di sfogliare i bilanci, Matteo Rossi, fresco assessore della giunta per Sella, annuncia il suo coming out. Tempi scenici perfetti. La prima cosa che mette sul tavolo è la fotografia del suo ufficio in via Fieschi. Il soffitto di cartongesso è squarciato da una perdita d'acqua. Ed eccolo qui, la giustificazione. Nella notte tra l'8 e il 9 luglio è esploso un boccione di acqua al piano di sopra, con il risultato che sono stati alluvionati fatture, scontrini e ricevute per 6.600 euro. Perizia, foto, autocertificazione delle pezze giustificative andate perdute sono finite nella relazione di accompagnamento del 2012. Ebbene sì, ha scritto al presidente Burlando: caro presidente, nell'alluvione ho perso le fatture. Accetta questa autocertificazione. Come ci diceva prima Vincino, mica che uno tiene tutto a computer, no, tutto su carta, e guarda caso la sfiga, il boccione d'acqua ha inondato tutte le fatture, per carità, 6.600 euro, non una cifra esosa, esorbitante, è il boccione d'acqua sulle fatture e gli scontrini da presentare. Guardate a volte che la sfiga ci vede quando vuole vederci benissimo. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, siamo qua alle 7:34 minuti, siamo pronti a darvi una sfilza di notizie dai giornali legate al mondo giudiziario. Ieri, davvero, io l'ho detto come battuta su Twitter, aspettavo che citofonasse qualcuno alle 8 di sera e io non avrei aperto, perché c'era il timore davvero che arrestassero mezza Italia. Battute a parte, si parte da che cosa? Di buon mattino Silvio Berlusconi ha raccontato, era ospite di Agorà, di Andrea Vianello su Rai 3, e ha parlato della questione delle tangenti, che viene sintetizzata così nei titoli: le tangenti sono inevitabili. Non ha mai usato questa parola, per la verità ha usato la parola commissioni. Basta con questi moralismi assurdi, parlava del caso Finmeccanica, ma anche dell'ENI, altrimenti è impossibile fare gli imprenditori a livello globale, Finmeccanica e le altre non staranno più sul mercato. Per l'ex premier, come scrive Barbara Fiammeri sul Sole 24 Ore, pagina 15, per l'ex premier le tangenti nei paesi del terzo mondo, India compresa, sono la regola, una sorta di commissione, ci si deve pertanto adeguare. Ovviamente apriti cielo, subito una bufera, il giornale difende Berlusconi, il Cavaliere salva le grandi imprese, tangenti, no commissioni, questo è il titolo di pagina 3, l'articolo di Francesco Kramer. Ci si sbizzarrisce ovviamente la campagna elettorale, la campagna da parte dei candidati per quasi tutto il giorno ha preso dichiarazioni su questo tema. La Stampa va a intervistare con Paolo Mastrolilli l'esperto americano Jagdish Bhagwati. Se lo fanno gli americani si parla di lobby, per gli altri è corruzione, è la prassi nei mercati internazionali. Quando la praticano gli americani si chiama lobby, quando la fanno gli altri diventa corruzione. Ride Jagdish Bhagwati mentre fa questa battuta velenosa, in realtà scherza solo un po'. Bhagwati è professore alla Columbia University di New York, studioso del Council on Foreign Relations, un'autorità mondiale nello studio e nella pratica di commerci internazionali. E alla domanda di Mastrolilli che prove ha per sostanziare questa battuta, tante, ad esempio questa: durante l'amministrazione Clinton fu invitato a viaggiare con una delegazione ufficiale che andava in Cina col segretario del commercio Ron Brown. Entrati nella sala dell'incontro principale, Brown parlò con schiettezza. Finora, disse, ho fatto l'avvocato lobbista a Washington e quindi potevo aiutare solo i miei clienti. Oggi sono ministro del commercio e quindi posso venire qui a ottenere contratti per tutte le aziende americane. Beh, non era lecito tutto questo. Certo, c'è anche chi sostiene che lobbismo è democrazia, altri però lo considerano la legalizzazione della corruzione. Tutti lo fanno, ma poi americani accusano i francesi, che accusano gli inglesi, che accusano i tedeschi, che accusano gli italiani e così via. La corruzione, dunque, è il sistema con cui funzionano i mercati internazionali? Sostanzialmente sì, risponde questo esperto. Ma bisogna saper distinguere, ci sono diversi livelli. Supponiamo che un paese importante mandi una delegazione in India guidata dal capo del governo e promette alle autorità di Nuova Delhi di aiutarla in Kashmir in cambio di una grande commessa. Non si spostano soldi, non ci sono tangenti, ma arriva sostegno politico a livello internazionale. Come la chiamate questa? Oppure si costruiscono costruiscono scuole, ospedali, strade in cambio dello sfruttamento di un giacimento. I più sofisticati si comportano così e sono inattaccabili, quasi generosi. Gli altri, un livello più sotto, pagano tangenti e finiscono nel mirino dei procuratori. Insomma, funziona così? Di questo poi ne parleremo anche alle 8.30. Il cavaliere tangenti ci sono, no ai moralismi, questo è il titolo che trovate più gettonato. C'è anche l'editoriale di Antonio Polito in prima pagina del Corriere della Sera, che mette insieme un po' la giornata di ieri. Il titolo è Il marcio e il caos. Scrive Polito: forse il Consiglio Superiore della Magistratura dovrebbe disporre un'indagine statistica per accertare se questa storia della giustizia a orologeria è vera o no. Se è vero cioè che in momenti politici particolari delicati come una campagna elettorale l'attivismo delle procure si intensifica e gli ordini di custodia cautelare fioccano. Certo che negli ultimi giorni il tintinnar di manette si è sentito e come, ma è provenuto da luoghi così distanti tra loro e per inchieste così diverse che è difficile credere all'ipotesi della manona giudiziaria di cui ha parlato Berlusconi. Però, scrive Polito, la corruzione dilagante è sotto gli occhi di tutti, c'è del marcio in Italia, questo è un fattore killer per la nostra economia. La domanda che circola nel mondo è: ci si può fidare di voi? È un costo in più del rischio Italia, la corruzione è così dilagante che talvolta rischiamo di perseguire come corruzione anche ciò che altrove è considerato solo lobbismo, dandoci ulteriormente la zappa sui piedi. Il confine è molto sottile, ma i nostri magistrati dovrebbero seguire il criterio dell'applicazione ragionevole della norma suggerito più volte dalla Consulta. Questo Antonio Polito sul Corriere della Sera, comunque la pensiate, oggi è davvero un profluvio di articoli di questo tema e su questo tema. A proposito di indagini giudiziarie, continuano gli sviluppi sulla questione Formigoni e appaiono le intercettazioni. Dalle intercettazioni si evince che Roberto Formigoni, secondo almeno le accuse della procura, aveva uno stile di vita molto molto lussuoso, almeno nelle cene, nelle gite, nelle vacanze, nell'uso degli yacht messi a disposizione da altri gratuitamente. Questo almeno a leggere intercettazioni. Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, tra l'altro, partono a pagina 6 da un'intercettazione di Mauro Villa, detto Willy, il segretario di Formigoni. Sentite l'inizio dell'articolo: Formigoni non è stata una bella situazione in conferenza stampa, quella di Gesù se la poteva risparmiare, anche perché sta dando del Giuda a quell'altro, cioè a Pierangelo Daccò. Gli dicevano che il presidente della Germania si è dimesso per molto meno e lui si arrampicava sugli specchi. A un certo punto stava dicendo di quelle cagate: sono limpido come l'acqua di fonte e non fare il figo. Questa è un'intercettazione per la quale scrivono Ferrarella e Guastella: si mettono davvero male le cose per il Gesù di turno. Se a farsene beffe quando proclama la propria limpidezza è perfino uno dei suoi discepoli più stretti, come il segretario Villa, che la mattina del 18 aprile 2012 commentava così al telefono con un amico l'autodifesa show in una video chat al Corriere di Formigoni, all'epoca non ancora indagato. E quindi parte il Corriere da qui, insomma, dal suo segretario che intercettato dice: eh sì, sono innocente, non fare il figo. E poi ovunque ci sono le spese. Per esempio Repubblica mette le spese a lavagna: 5.500 euro, 380 di pescheria, 36 di focacce, 31 di pasta fresca, 7 euro di farmacia, 7 euro della brioche. Formigoni non paga nemmeno il cappuccino. Non paga nemmeno le creme da viso, che sono diventate un po' il mito di questi articoli. Pare che, scrive il Messaggero, l'autista per ritirare le creme di Formigoni da Chenot, uno dei massimi esperti anche di diete al mondo. Allora, in un'intercettazione, secondo te è possibile recuperare da Chenot la crema? Chiede Formigoni a il suo segretario, quello di prima, Willy. Tieni presente che abbiamo eventualmente l'autista, possiamo mandarlo lì, cioè l'autista per la crema da viso. E a un certo punto Willy si attiva, prenota la crema riuscite a farmela avere lunedì mattina, perché sennò mi spacca le palle. Ecco, la crema è questa, la Gene Science Viso, non il contorno occhi, mi raccomando. Due ne ha consumate, me le dai, me le hai portate prima dell'estate. Insomma, ordinava, pare, le creme con autista e andavano, venivano prese. E quindi ville, barche, cene, creme, l'opulenza di Formigoni, anche Giuseppe Vespo sull'Unità. Vabbè, si spulciano le carte. E sul fatto invece Sarti cuochi, viaggi gratis, la vita celeste di Formigoni. Tra l'altro un cuoco, Sadler, viene intervistato dal Giorno. Ristorante Sadler, scintillante, via Sforza, nel cuore di Milano. Claudio Sadler, intervistato da Agnese Pini sul Giorno. 177.000 euro per cene. Sadler è più spiccioli, lo dicono le ricevute fiscali, 177.000 euro. Che beveva Formigoni? Ma Don Perignon, Crystal, i vini più famosi, un minimo di 200 euro a bottiglia. Chi pagava? Sempre Daccò. Solo un paio di volte mi pare abbia pagato il presidente. E quando veniva da solo, Daccò ci aveva detto che le spese del presidente andavano messe sul suo conto. Molto generoso, generosissimo, risponde Sadler. Tanto che tutto questo si concretizza nel Buongiorno di Massimo Gramellini, oggi in prima pagina della Stampa, la ricetta formigona. Mentre gli esperti si arrovellano alla ricerca di una soluzione della crisi, qualcuno sembra averla già trovata, ne ha mostrato l'efficacia con la testimonianza personale. Questo qualcuno è un autodidatta appassionato di giacche a fiori, Roberto Formigoni. Secondo gli atti dell'inchiesta che lo riguarda, l'economista italo-hawaiano ha scoperto un sistema per ovviare alla ormai cronica carenza di denaro. Non pagare. Come diceva Einstein, le idee geniali sono sempre le più semplici. Al pari di tanti suoi connazionali, Formigoni si è posto il problema di mettere insieme il pranzo con la cena e lo ha risolto individuando un ristorante di lusso di Milano. Lo studioso vi si è recato per anni, talvolta da solo, più spesso in comitiva, ordinava ostriche e champagne, mangiava con appetito, ringraziava il cuoco e i camerieri, poi infilava il soprabito sopra i Bermuda e andava a digerire altrove. E il conto, direte voi, ma il conto è una convenzione. Io ti pago perché tu con i miei soldi possa pagare qualcun altro, mentre qui è la premessa a venire messa in discussione. Se il proprietario del ristorante avesse saputo portarla alle logiche conseguenze, per esempio andando al cinema e limitandosi a salutare calorosamente la bigliettaia, il sistema capitalistico sarebbe stato terremotato dalle fondamenta, perché poi la bigliettaia del cinema avrebbe fatto la spesa al supermercato uscendo col carrello senza pagare tra gli olè delle cassiere. Alla fine della catena ci si sarebbe ritrovati tutti nel ristorante di lusso a ordinare ostriche e champagne in compagnia di Formigoni. Alessandro Proto, arrestato, finanziere a San Vittore, abile manipolatore del mercato, leggo nell'articolo del Corriere di Andrea Galli e Gianni Santucci. Meno di due mesi dopo quelle autopromozioni in cui parlava di sé come il venditore delle case celebri, da Brad Pitt a DiCaprio, trovo casa in Italia ai VIP, l'accusa è quella di avere scalato la Tozze, la RCS, manipolando il mercato azionario. L'arma del reato, una sfilza di comunicati diramati con frequenza tabureggiante tra siti, agenzie di stampa, giornali economici, in cui annunciava fantomatiche acquisizioni in borsa. Le accuse dunque sono ostacolo agli organi di vigilanza, aggiotaggio. Insomma, secondo i magistrati, prometteva sfracelli, ma faceva poco più che pacchi alla napoletana, così si legge. E dunque in carcere, bancarotta da 30 milioni, questa è l'accusa invece per Angelo Rizzoli, che torna dopo tanti anni in carcere, disposto al ricovero in ospedale. E quindi anche lui arrestato, anche il Gianluca Baldassarri, responsabile dell'area finanza di Monte Paschi Siena. Tutto il resoconto con Marco Ludovico e Sara Monaci a pagina 7 del Sole 24 Ore. Come vedete sono tutte vicende slegate tra di loro, per carità, ma ieri c'è stata una concentrazione di atti giudiziari di questo tipo davvero impressionante. Monte Paschi, decreto di fermo per Baldassarri. Sul Sole, svolta clamorosa nell'indagine sul Monte Paschi, è stato fermato dalla Guardia di Finanza Gianluca Baldassarri, è considerato una delle menti della cosiddetta banda del 5%, un gruppo di 5 persone che si intascavano le percentuali illecite sulle commissioni. Si tratta di un fermo. Quando è stato fermato era reduce dalle Maldive, raccontano i giornali, aveva con sé 30.000 euro in contanti. Insomma, nel giorno in cui arrestano tutti, l'unico che può tirare un sospiro di sollievo è Augusto Minzolini. Augusto Minzolini invece è stato assolto per la vicenda delle carte di credito. Minzolini assolto, parla di Via Crucis in prima pagina del giornale. Alessandro Sallusti, il direttore, inizia il suo editoriale così: È stato assolto ieri dall'accusa di aver usato in modo improprio la carta di credito aziendale. Tutto bene? Per niente, perché quell'accusa di aver mangiato e viaggiato a sbaffo gli è costata il posto di direttore, oltre che un anno e mezzo di linciaggio mediatico da parte di colleghi che, pur essendo molto esperti di rimborsi spesso furbetti, avevano emesso una condanna definitiva dando per buono il teorema del PM. E infatti Minzolini, intervistato da Libero, dice: oggi, ora voglio tornare al TG1. Intervistato da Enrico Paoli a pagina 9, che succede? Semplice. La RAI dovrà applicare la stessa legge che ha usato per rimuovermi dalla direzione del TG1, l'articolo 3 per farmi fuori, l'articolo 4 per reintegrarmi, entro 10 giorni. E se non lo fa? Non può non farlo, lo dice la legge, la RAI non può mettersi fuori dalle regole. Nel frattempo è chiaro che i miei avvocati sono già al lavoro, l'unico impedimento possibile è che il TG1 non esista più. Mi sembra difficile. Insomma, effettivamente non ha tutti i torti, legge alla mano. Dice: sono stato linciato per un anno e mezzo, una via crucis, mi inseguivano dappertutto, mi facevano interviste, mi facevano la posta, mi dicevano che aver mangiato a sbafo. Adesso sono stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Voglio tornare al TG1. Nel frattempo è candidato Augusto Minzolini, e questo sicuramente è un problema, dovesse venire eletto. Che succederà? Insomma, vedete che nel giorno delle manette facili c'è anche qualcuno che invece può esultare. Allora, tutto questo ha un po' offuscato la campagna elettorale, c'è Grillo che tuona, crolla tutto, presto altri arresti, ci sono le schermaglie tra centrodestra e centrosinistra, ma insomma certamente le questioni giudiziarie hanno un po' offuscato tutto il resto. C'è anche tanto ancora delle parole del pontefice, del papa, della sua decisione di mettersi. A questo proposito, sul Vaticano e tutto quello che ruota attorno al Vaticano, vi devo segnalare l'inchiesta del Sole 24 Ore, perché davvero c'è una cifra spaventosa. Sapete a quanto ammonta, secondo stime, il patrimonio immobiliare della Chiesa nel mondo? La cifra è questa: 2.000 miliardi di euro, 2.000 miliardi, il nostro debito pubblico. Marzio Bartoloni, a pagina 10 del Sole, metà di questo patrimonio tra l'altro è in Italia. Il suo patrimonio mondiale è fatto quasi di 1 milione di complessi immobiliari composti da edifici, fabbricati, terreni di ogni tipo, con un valore che prudenzialmente supera i 2 miliardi di euro. Ospedali, università, scuole. 1,2 milioni di dipendenti, tra virgolette, quasi 1.200 milioni di cittadini, sempre tra virgolette. Tutto questo va sotto il nome di Chiesa, un universo dietro il quale non c'è solo unicamente il Vaticano, ma una galassia di congregazioni, ordini religiosi, confraternite sparse in tutto il mondo. Chiese, sedi parrocchiali, case generalizie, istituti religiosi, missioni, monasteri, case di riposo, seminari, ospedali, conventi, ospizi, orfanotrofi, asili, scuole, università, insomma c'è di tutto ovviamente. Un universo intorno al quale gravitano nel mondo 412.000 sacerdoti e 721.000 religiose che assistono 1.195 milioni di fedeli. Secondo il gruppo Re, che da sempre fornisce consulenze a suore e frati nel mattone, circa il 20% del patrimonio immobiliare in Italia è in mano alla Chiesa. Cioè, io questa l'ho letta 4 volte come riga. Il 20% del patrimonio immobiliare in Italia sarebbe in mano alla Chiesa. Un edificio su 5. Un patrimonio immenso che non si ferma solo a Roma. Già si racconta l'inchiesta di Paolo Oietti, storica, sull'Europeo nel lontano 1977, dove si calcolò che un quarto della città di Roma era di proprietà della Chiesa. Un quarto della città di Roma. Comunque, sì, c'è questa cifra e questa inchiesta molto interessante, con anche Ugo Tramballi, sull'influenza geopolitica della Santa Sede per il miliardo abbondante di fedeli nel mondo. Chiesa, 2.000 miliardi di immobili nel mondo, diffusi continente per continente, tutti dati dettagliati sul Sole 24 Ore. La cronaca è soprattutto internazionale. Questa vicenda di Pistorius, davvero ha sconvolto ieri di prima mattina. Pistorius è accusato, oggi ci sarà il processo per direttissima in Sudafrica, di avere ucciso la fidanzata, tra l'altro nel giorno di San Valentino, nel giorno in cui si ricordano in tutto il mondo le violenze sulle donne perché non accadano più. Pistorius sotto accusa, la Gazzetta dello Sport diventa, come dire, regina in questo momento della rassegna stampa, perché Pistorius da angelo a mostro, uccide la fidanzata, shock nel mondo, la polizia lo accusa di omicidio volontario. C'è anche un bellissimo articolo sul Corriere della Sera di una penna molto raffinata, Goffredo Buccini, lo trovate a pagina 21, ascesa e caduta del superuomo che correva contro il destino. Lo abbiamo amato come siamo una promessa mantenuta, perché questo era fino a ieri Oscar Pistorius, la dimostrazione fisica che con quei suoi trampoli mirabolanti al posto delle gambe, che qualsiasi cosa ci accada nella vita c'è quasi sempre modo di reagire, never surrender, e di beffare gli dei avversi rubando loro il fuoco e portandolo tra gli umani. Inizia così l'articolo, che invece è un viaggio di quello che davvero era una vita straordinaria e rischia di trasformarsi in un inferno, soprattutto per la vittima, ma anche ora per lui, Oscar Pistorius. "24 Mattino", l'Italia si desta. Ben ritrovati da Alessandro Milan, quando sono le 8:16. Con noi, lo voglio salutare, c'è il sindaco di Mira, siamo in provincia di Venezia, Alvise Maniero del Movimento 5 Stelle. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno. L'avevamo intervistata quando era stato eletto, no? Il sindaco più giovane d'Italia. Lo conferma che è il sindaco più giovane d'Italia, è vero? Sì. No, non ho mai verificato, ma mi dicono così. Dicono così. Mi auguro che sia qualcuno anche di più giovane. Quanti anni ha? 27, 26? Ne ho fatti 27, ne avevo 26. 26 quando ero eletto. Sì. Studente di scienze politiche che deve rinunciare, ho letto, all'Erasmus in Portogallo perché deve fare il sindaco. Ubi Maier. Minor Cestat. Bene, allora sindaco l'abbiamo chiamata perché agli onori della cronaca, per la verità con molte critiche, è salita a Mira in questi giorni perché c'è questa denuncia pubblica dell'ex assessore Roberta Agnoletto, che ha detto: mi hanno fatto fuori, mi hanno ritirato le deleghe perché sono incinta. Messa così è davvero una brutta immagine. Allora, perché ha ritirato le deleghe a quest'assessore? No. Allora, intanto non c'è ancora l'atto ufficiale, ma questo non ha importanza. Il discorso è completamente diverso. La gravidanza, prima di tutto, non c'entra nulla. Il discorso che abbiamo portato avanti è, all'interno della Giunta, una richiesta di maggiore presenza, semplicemente perché abbiamo una mole di lavoro mostruosa da portare avanti. Il nostro comune viene da 63 anni di continuità amministrativa e ci serve veramente un impegno grandissimo. Alcuni di noi stanno su fino alle 3 di notte, non sto scherzando, per dare una mano a lavorare. Sì. E alcuni assessori della nostra giunta, buon per loro, hanno un secondo, un terzo lavoro e non possono essere presenti come altri. Come Roberta Agnoletto, che è avvocato, se non sbaglio. È avvocato e adesso non vorrei citare scorrettamente, ma dovrebbe avere anche un rapporto di collaborazione con l'università, ha un curriculum meraviglioso, è preparatissimo. Però lo sapevate già quando ma è stato. Certo, quando ma, è stata. Ma certo, ma sì, ma lei non l'ha mai nascosto, non c'è niente no, di ma dico buon anche, per anche lei. Lei quando l'ha scelta come assessore sapeva già che aveva questi tipi di doppio lavoro. Ma sicuramente, anzi, in realtà le sue competenze anche lavorative le fanno merito e la rendono anche appetibile come proprio come assessore. Niente da dire a riguardo. Il problema è sorto appunto, lei lo sa, insomma, siamo quanto di più nuovi alle esperienze politiche. Dopo mesi di rodaggio, insomma, di prova della macchina comunale in cui abbiamo portato avanti il nostro programma di mandato, ci siamo resi conto che di fronte ad assessori magari con un paio di deleghe che possono essere presenti due giorni a settimana, due giorni e mezzo, altri appunto si fanno tutta la giornata e parte della notte e insomma non si riesce non a lavorare bene. E l'Agnoletto era di quelle che poteva garantire solo due giorni a settimana. Certo, tra altri però sa, magari è anche legato alla gravidanza, non so, questa sua mancata... Guardi, No. Anzi, io glielo dico, a mio giudizio, a mio parere, nell'ultimo periodo è paradossalmente stata più presente e più attiva di prima. Nel primo periodo non eravamo molto convinti. Però non ha un po' sottovalutato la portata mediatica di questo messaggio, cioè ritirare le deleghe a una donna nel momento in cui è incinta? Lei mi conforta perché si rende conto come me che se ci fosse stata il minimo intento, la minima malizia, Di sicuro una cosa del genere nessuno l'avrebbe fatta a 2 settimane dalle elezioni. Immagina, scusi, il sindaco che va 2 settimane dalle elezioni dall'assessore e le fa: guarda, tu te ne vai perché sei incinta. È surreale, incredibile e folle, semplicemente. Sì, sarebbe stato un po', sarebbe stato ingenuo, uso un eufemismo da parte sua, metterla giù così, effettivamente. No, ma proprio ingenuo, suicida. Non so come. Poi io lo capisco. Perché però il suo ex assessore, insomma, non è ancora l'atto, non c'è ufficiale, però insomma, immagino che le ritira le deleghe. Noi dobbiamo affrontare il problema. Però Roberto Agnoletto ha detto è così, cioè cos'è, ha sbagliato, si è fatta prendere la mano, ha fatto uno sfogo. Io voglio avere la migliore buona fede e sono sicuro che nella sua intelligenza, nella sua esperienza, non può che aver capito male, perché qualsiasi altra cosa, insomma, farebbe avere un'opinione. Sì, veramente non so, anche perché ha tirato in mezzo la Presidente del Consiglio, ha detto che è stata lei su mia delega a dirle che veniva avvocata, insomma, non lo so, per motivi di gravidanza, ripeto, non c'è niente di questo genere. Poi c'è un'ultima cosa che è secondaria ma va chiarita: questo non è un rapporto di lavoro, si lavora per vivere, ma si governa e si svolge un incarico politico per servire, quindi noi siamo qui se serviamo al cittadino, non se serviamo a noi. Nel momento in cui io o un assessore siamo inutili, ce ne andiamo, così deve essere. Questo è proprio un passo di cultura politica che dobbiamo acquisire come paese. È vero che ci sono altri 2 assessori a cui hai ritirato le deleghe ieri, poi però ha fatto marcia indietro perché, insomma, Vede, quello proprio è il motivo per cui ho deciso che questa è l'ultima intervista. Poi quello che dovevamo dire l'abbiamo già detto su internet, chi vuole, e da tutta Italia vedo che vanno, si informano e ci mandano le congratulazioni e il sostegno. I giornali e le TV continuano a citarsi a vicenda, distorcendo le fonti e senza riportare quello che diciamo. Continuano a ripetere solo gravidanza, quando è l'unica cosa che non c'entra. Non abbiamo neanche ritirato altre deleghe agli assessori. Ho solo ripetuto che con tutta la giunta e con i nostri consiglieri abbiamo portato avanti questo discorso, cioè come facciamo ad avere assessori presenti. Gli altri hanno detto: beh, nessun problema, siamo qui al servizio del cittadino, un passo indietro, venga un altro più presente e io vi do una mano da fuori al limite, non lo so. Senta, ma dopo ha pensato diversamente, dopo ha pensato molto male. Sì, dopo qualche mese che effetto io mi avete mandato, ho visto che è tutto disponibile online, si può vedere anche i consigli comunali in streaming, in diretta TV, ci sono delle cose che avete fatto, insomma, come giudica questa esperienza politica? La considera più impervia di quello che sembrava all'inizio? Si sta, tra virgolette, anche divertendo nel servire i cittadini, oppure sono più le difficoltà che altro? Guardi, è quanto di più duro possibile, ma è duro perché è reale e ce n'è veramente un gran bisogno. Noi qui vediamo una scheggia di quello che c'è da fare in Italia, ma se io penso alle proporzioni tra quello che troviamo qui e quello che ci sarebbe da trovare in regione o a Roma, io veramente ho i brividi. E se queste cose le facciamo noi che siamo completamente inesperti, io che sono 27 anni e non ho una preparazione specifica, io mi chiedo veramente, mio Dio, cioè se qui c'è bisogno di noi, è terrificante la situazione per quello che può esserci bisogno a Roma, non so se mi spiego. Comunque sì, è un lavoro enorme e davvero non lascia tregua. Ammetto che si deve sacrificare parte della propria vita. Ha visto che ovunque in tutta Italia ci sono arresti, tangenti, accuse, inchieste, eccetera. Lei, insomma, ha visto, toccando con mano la cosa, lei dice bene, ma toccando con mano la cosa pubblica, vede che c'è questo, come dire, un po' di persone attorno che girano che sono poco convenienti frequentare? Guardi, con me nessuno ha avuto la follia di presentarsi in maniera aperta con proposte improprie, diciamo, però non posso nascondere che veramente una quantità di volte, tra sfumature, accenni e doppi sensi, sì, il sospetto viene. Comunque, guardi, le persone poi si capiscono anche dagli occhi. E molto spesso ci siamo trovati davanti alla persona che ti arriva appunto in ufficio, ti stende la mappa sul tavolo e ti dice: bah, guarda, tu mi fai fare questa cubatura, io poi faccio questa cosa qui. No, non ci siamo. E come si riconoscono? Dagli occhi, lei li riconosce? Io dico dagli occhi, sì, a me piace dire così, secondo me sono lo specchio dell'anima, alcune cose le vedi subito, poi ovviamente non è quella la valutazione. E perché dice bene tutti questi arresti? Perché vuol dire, se ci sono tutti questi arresti, vuol dire che ci sono tante corruzioni che vengono snidate. Non posso, ovviamente non posso che sperare che siano fatti su una base ovviamente corretta, secondo le procedure, giustificata, però insomma mi pare evidente che come paese abbiamo bisogno di una maggiore certezza del diritto. E insomma, nel momento in cui la giustizia si muove, proprio per il periodo in cui stiamo vivendo, mi sembra un ottimo segno. Accidenti. Senta, è vero che voi vi siete ridotti lo stipendio, voi non prendete più i 2.300-2.500 euro, tutti quelli del Movimento 5 Stelle, dovunque certo, siate eletti. Però c'è, ancora meno. Lei 2.300 prende, credo. In realtà adesso netti sono scesi, sono 2002, una cosa così, ma 2002. Credo che cambia da mese a mese secondo regole imperscrutabili, comunque sempre al di sotto di quelle soglie. Però c'è una polemica sui gettoni di presenza in consiglio, li avete tolti, li toglierete, sì, oppure no? Ah, quella è una cosa veramente meravigliosa. Allora, quello che nessuno dice è che i gettoni di presenza nel nostro consiglio sono già al minimo legale, diciamo, cioè, ovvero parliamo di 36 euro lordi, 36 euro lordi a seduta. Che vuol dire che un consigliere, se ci fa tutti i suoi bravi consigli e le commissioni, in un mese forse tirerà 100 euro netti. Cioè, perché sono 3-4 consigli. Ma fate come quelli che fanno il trucco di arrivare poco oltre la mezzanotte? Come guardi, lei ha tutte, vede, questo è il motivo per cui abbiamo voluto mettere la telecamera in consiglio. Lei può in ogni momento controllare e vedere che cosa facciamo. Noterà che noi siamo inchiodati lì e che delle volte tiriamo avanti fino alle 4 di notte. Mm. Tra l'altro non c'è neanche il doppio gettone se si supera la mezzanotte. Ah, ecco, appunto, no, perché quello io le dirò altro. La proposta di quello. Togliere il gettone è stata fatta da un assessore provinciale, che è anche consigliere del nostro comune, sì, che tra virgolette costa 63.000 euro all'anno circa, quello è il suo insomma stipendio da assessore, e ha chiesto di togliere il gettone ai nostri consiglieri, ai consiglieri del nostro comune, ovviamente, che le ho detto. Cioè, però l'ha chiesto, lo ha chiesto perché ha detto lo avevate promesso voi in campagna elettorale. È vero che l'avevate promesso oppure no? No, ma sta scherzando, ma guardi, i costi della politica si tagliano dall'alto, noi dal basso abbiamo già fatto il nostro, io mi sono tagliato lo stipendio, abbiamo tagliato i 50.000 euro ai dirigenti, siamo passati a uno schema che aveva direttore generale, segretario generale, 5 dirigenti, a 3 dirigenti e segretario, per cui ce l'abbiamo praticamente dimezzato, sì, abbiamo dimezzato i costi dei consigli di amministrazione, cioè, abbiamo fatto veramente incredibile, sì, quel punto di vista, e non le dico con che difficoltà. Ma no, ma è chiaro. Senta, ma se l'assessore Agnoletto dovesse dire posso rigarantire 7 giorni su 7, lei se lo riprende? Magari. L'unica cosa che sinceramente a me pone problema è questa lettera, perché aver mandato una mail a tutti i dipendenti comunali, non solo alla parte politica. Accusando la questione. Ma, accusando una cosa del genere, io sto ancora cercando di parlare con l'assessore per capire insomma. Ah, non neanche le da udienza, come non è neanche da udienza. Io avevo cercato prima ancora che mandasse, pochi minuti prima che mandasse quella mail, di contattarlo, ma non mi ha risposto neanche via mail. La questione è quella, se ci vuole una giusta presenza, e questo è ovvio, insomma, uno se fa l'assessore deve lavorare, allora non so, una mamma che ha un bambino piccolo, magari non so, i primi mesi come fa a fare l'assessore? Cioè è un elemento escludente perché... Ma no, guardi, noi a Mira abbiamo avuto l'esperienza di una sindaca, donna e mamma, che faceva tranquillamente le interruzioni del consiglio comunale per fare l'allattamento. La gravidanza non è minimamente un problema sotto nessun punto di vista. Poi tutte le altre valutazioni insomma sono personali, insomma non voglio. Dica la sua previsione su quanti parlamentari porterete secondo lei, Beppe Grillo, e guardi, non solo non faccio previsioni, ma non ha assolutamente nessuna importanza. L'importante è come cittadini, quanto siamo svegli e quanto siamo attenti a controllare i nostri eletti. Sarà importante portarne uno in più rispetto che uno in meno, sarà importante, no? O non ve ne frega niente, no? Ma sì, per carità, è un controllore in più, un cane da guardia in più, che di fronte al quale è più difficile nascondere le cose, che farà da cassa di risonanza per qualsiasi scorrettezza. Cani da guardia, ecco come cani da guardia vi sentite, no? Così. Però vede, in realtà il processo che portiamo avanti non è politico, è culturale, cioè noi vogliamo migliorare la coscienza civica democratica del cittadino italiano, noi siamo quelli che dobbiamo migliorare, poi vabbè, eleggiamo, ma intanto io la ringrazio. Al vise maniero detto boccia, è vero? Il boccia è conosciuto in paese. l'ho preso anch'io dai giornali. Ah, cioè non è vero che la chiamavano il boccia? Comunque volevo, io l'ho preso dai giornali, non sapevo di essere... Se non lo sa lei, che viene a chiamare, se non lo sa lei. A me basta lavorare e essere utile ai cittadini, per cui mi chiamino come voglio. Grazie, sindaco di Mira del Movimento 5 Stelle, Alvise Maniero, in provincia di Venezia. Ci ha parlato un po' di questa vicenda, allora, dell'assessore che accusa, mi hanno tolto le deleghe perché è incinta. Noi ci fermiamo qualche minuto e poi parliamo di tutte queste tangenti. San Manettino ieri, altro che San Valentino, San Manettino. Tutti arrestati, più o meno tutti, mezza Italia arrestata, torna Tangentopoli, non è mai scomparsa Tangentopoli. 24 mattino alle 8:34 minuti, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Ieri è stata una giornata di retata, si può dire, tanto che oggi tutti i giornali titolano torna a Tangentopoli, si vota sotto con le manette sotto elezioni, insomma, certo, fasi e inchieste le più disparate che non hanno nulla in comune, ma ieri è stata una giornata in cui la cronaca giudiziaria era un inseguirsi di persone che venivano arrestate sotto tutti i profili, tanto che su Twitter circolava questa battuta: ieri era la giornata di San Manettino invece di San Valentino. Allora, ne vogliamo parlare con Piero Stellino, che saluto, buongiorno. Editorialista del Corriere della Sera, saluto anche Bruno Tinti, ex magistrato, collabora con il Fatto Quotidiano, buongiorno Bruno. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, vogliamo da che cosa? Da partire da Silvio Berlusconi, dall'audio di Berlusconi, quando ieri si è presentato ad Agorà e, parlando delle inchieste internazionali, Eni, Saipem, Finmeccanica, ha detto questo. Eni e Finmeccanica trattano con altri paesi per vendere i loro prodotti, devono adeguarsi alle condizioni di quel paese. Nelle democrazie normalmente si fa soltanto la gara d'appalto, in paesi che non sono complete e perfette democrazie ci sono altre condizioni che bisogna accettare se si vuole vendere il proprio prodotto a quei paesi. Anche se sono illegali? Ma sono illegali per loro, non per noi, perché noi mettiamo in conto quello che dobbiamo spendere, tot per l'appalto e tot per esempio per costruire un ospedale o una scuola richiesta dal Presidente della Repubblica con cui stiamo trattando. Se sono stati commessi dei reati, la magistratura... Ma non sono reati, no, si tratta di pagare una commissione a qualcuno di quel paese, perché quella è la regola di quel paese. Vogliamo non pagare commissioni e allora stiamo a casa e non vendiamo più niente. Piero Stellino, è pragmatico il discorso o è un'incitazione alla tangente? Ma a me non pare un'incitazione alla tangente, mi pare una parafrasi di Machiavelli. Cioè, quello che sta succedendo nel paese di Machiavelli è semplicemente ridicolo. E cioè, il male esiste e immergersi nel male è un fatto naturale. Non significa stare poi dentro al male, significa tenere conto del fatto che il male esiste, e non si fanno né gli affari né la politica con i paternoster, tanto per dirla con Benedetto Croce. Cioè, in altri termini, le inchieste su la Saipem, Finmeccanica ed Eni sono inchieste che coinvolgono non soltanto le nostre aziende, ma in qualche modo coinvolgono anche i partner delle nostre aziende internazionali. Cioè, ci mettiamo persino a valutare la moralità dei nostri interlocutori, il che è abbastanza ridicolo. Che le tangenti sul piano internazionale esistano, non ci sono dubbi, e non sono un bene, e non sono un bene nemmeno quando hanno effetti positivi, restano un male, però restano un male necessario, cioè se noi vogliamo avere competitività sul mercato internazionale, dove appunto non si va avanti a forza di paternoster, dobbiamo tenere conto di questo. Questo d'altra è il punto. Parte, che i magistrati applichino la legge è anche inevitabile ed è anche giusto. Però resta il fatto che evidentemente c'è qualcosa di sbagliato. Ma questo è un punto interessante, cioè, voglio dire, sono un male, ma un male necessario. Se no, parafrasando Berlusconi, alla domanda di Andrea Vianello, ma scusi, anche se sono reati, vabbè, ma non sono reati, sono cose con cui fare i conti, altrimenti vogliamo fare affari, facciamoli, se no stiamocene a casa e lasciamo che tutti gli altri paesi facciano affari. Allora, Bruno Tinti, Oggi un esperto americano intervistato dalla stampa, Jagdish Bhagwati, dice più o meno la stessa cosa, cioè dice ci sono persone che vanno lì e non so, alla richiesta ci fate un ospedale, ci costruite un ponte, ci aiutate nelle relazioni con quel paese, dicono sì, va bene, questa cos'è, una tangente? No, è un, come dire, si potrebbe qualificare come una tangente, in realtà sono delle opere che uno fa per ottenere una commessa, poi c'è quello che proprio dà la tangente, paga i soldi, quello magari è un po' più ingenuo e viene beccato dai magistrati. Allora, Tinti, questi magistrati stanno danneggiando in qualche modo anche gli interessi nazionali all'estero? Senta, io trovo questo tipo di conversazione assolutamente surreale. Si sta come ipotizzando un comportamento differenziato a seconda che lo si tenga in Italia o all'estero. Pagare tangenti non si può fare né in Italia né all'estero. Se lo si fa in Italia, tutti sono d'accordo sul fatto che si deve andare in prigione. Se lo si fa all'estero, si comincia a dire che la concorrenza viene sminuita. Ma le chiedo, mi scusi, costruire una scuola nel paese... Ma certo che non è una tangente. In cambio di una commessa. Certo però. Che non è una tangente, per il semplice fatto che a questo punto l'azienda che costruisce la scuola scriverà in bilancio tra i costi dell'operazione il fatto di aver costruito una scuola. Che è molto diverso dal dare 50 milioni a qualche losco figuro. Voi state, la gente che fa questo tipo di discorsi sta ragionando con voi che dicono violentare i ragazzi in Italia non sta bene, ma un po' di turismo sessuale in sì andata bene invece. Ma che discorso è? Cioè, lei fa questo paragone addirittura? Ma mi sembra evidente, voglio dire, sono comportamenti illeciti. Li giustifichiamo perché si fanno in India? Non si può. No, ma non è che non è questione di giustificarli, è capire quello che è lecito o non lecito. Lei stesso dice Certamente non è lecito. La legislazione indiana, per esempio, addirittura non prevede la mediazione, punisce chi paga la mediazione. Allora, mi scusi, siccome Berlusconi in questo caso non ha detto di tangente, ha parlato proprio di dire, uno, non so, costruisce un ospedale, fa un'opera nel paese... Berlusconi intanto ha detto una cosa diversa nei giorni passati, oggi ha aggiustato il tiro. Comunque, senza fare il processo a frasi più o meno sciocche, certamente da un punto di vista giuridico e tutto sommato anche etico, c'è una bella differenza tra il dare una somma ad una persona corrotta che poi magari la divide con lo stesso funzionario che gli ha dato questa somma e prendere atto che lo Stato ti fa ti concede un contratto per una certa fornitura a patto che tu ti costruisca un ospedale o una scuola. Benissimo, io ti costruisco l'appalto della scuola, lo metto nel contratto e lo scrivo in bilancio. Che c'entra questo con una tangente? Non è una tangente. Piero Stellino, oggi Antonio Polito sul Corriere della Sera dice forse il Consiglio Superiore della Magistratura dovrebbe disporre un'indagine statistica per accertare se davvero questa storia della giustizia a orologeria abbia almeno un supporto statistico oppure no, cioè se in campagna elettorale aumentano o meno le inchieste giudiziarie. Lei che ne pensa, Stellino? Ma questa è una cosa che riguarda il CSM, mi pare che Polito abbia ragione di chiederlo al CSM. Il CSM lo farà o non lo farà? Questa è la domanda a cui, cui rispondere, però probabilmente non lo farà, il che vuol dire che la magistratura diventa un fattore politico? Questa è una deduzione che poi trarranno gli italiani. È perché la domanda presuppone il dubbio che sia così. Cioè... Però resta il fatto, io vorrei ritornare al discorso di prima, e cioè che a questo punto la magistratura, sto parlando di quello che ha detto il magistrato Tinti 5 secondi fa, o mette all'indice anche Machiavelli, cioè proibisce che venga venduto Machiavelli, oppure ci affidiamo, come dire, ad una eticità assoluta e allora, come dire, ci vestiamo tutti con il saio del frate francescano e andiamo avanti. Ma la vita è un'altra cosa. La vita è fatta di bene e di male che si confondono, di zone grigie e via di questo passo. Cioè, se noi vogliamo spaccare la realtà e la vita nel bene e nel male in bianco e nero, noi finiamo col farci dei danni da soli. Cioè, queste inchieste, parlo della Finmeccanica e dell'ENI, sono inchieste che danneggiano l'industria italiana. Dopodiché era perfettamente ragione il magistrato a dire, però... quello di aver pagato una tangente è un reato. E che si fa? Ma c'è una legge addirittura che prevede la corruzione tra privati. Cioè, in altri termini, se due privati tra di loro trovano un accordo attraverso una tangente, attraverso la costruzione di una scuola, attraverso qualsiasi cosa che in qualche modo alteri il mercato, è un fatto che riguarda quei due privati. Mm. Siccome questa legge noi l'abbiamo estesa, siamo andati a vedere se gli indiani o i nostri partner internazionali sono morali come noi vorremmo che fossimo noi. Non lo so, questo non ha nessun senso. Tinti, lei vuol mettere un saio francescano ai nostri grandi manager che vanno in giro per il mondo? Guardi, che questo è un discorso veramente mistificatorio. Qui la morale non c'entra niente. I francescani non c'entrano assolutamente niente. E soprattutto, insisto, continuano a non entrarci niente questi paragoni con le scuole e gli ospedali. Mm. Qui si tratta semplicemente di una legge internazionale che c'è in Italia, perché l'Italia insieme ad altri 29 paesi ha realizzato quella direttiva impartita dall'OCSE nel 2000 sulla corruzione internazionale. Tutti questi paesi applicano questa legge. Il dare 50 milioni di euro a delle persone perché se le mettono in tasca è cosa del tutto diversa sia dal costruire scuole ed ospedali, sì, sia da una presunta violazione morale. Lei è d'accordo col fatto che l'industria italiana in questo caso ne esce danneggiata a livello proprio economico come concorrenza rispetto a quello che fanno le industrie degli altri stati? Ma sa lei che cosa sta dicendo? No, è una domanda. Sta dicendo che quando uno commette un reato e viene preso, viene danneggiato, ma si capisce. Quando Lehman Brothers è stata scoperta a fare le sue porcherie e ha fatto la fine che ha fatto, si capisce che c'è stata una distruzione di ricchezza. Ma non è che gli Stati Uniti si sono messi a ragionare dicendo ma in questo modo perdiamo di competitività. Ma secondo lei gli Stati Uniti, lei li ha citati lei, ma così come gli altri paesi che fanno commesse con l'estero non fanno le stesse cose? Secondo lei, come opinione? Ma è pieno di gente che viola la legge. Io non sto dicendo che qualcuno non può decidere di violare la legge, sto dicendo che quando viene preso abbia il buon gusto di dire sì, ho violato la legge, e non di andare a cercare delle giustificazioni ridicole. Invece di andare a lamentarsi del fatto che qualcuno l'abbia beccato. Allora, si fermi. Ma non pretendere che sia una regola di carattere generale. È chiaro, si fermi qui. Alle 8:47 minuti vorrei sentire anche Claudio che ci ha chiamato dalla provincia di Venezia, vedo. Buongiorno. Buongiorno. Dica a tutti Claudio. Gli ascoltatori. Sono Claudio Bilato, presidente dell'Usarci di Paolo da Rovigo e consigliere nazionale Usarci. Sì. Faccio il venditore da quando avevo 20 anni, 18. E quello che state dicendo, io mi rifarei a quello che dice Gesù, scagli la prima pietra chi è senza peccato, perché se voi parlate con la stragrande maggioranza di chi va in giro a vendere, dalla GDO a enti pubblici eccetera, sia in Italia che all'estero, se vuoi lavorare non ci sono altri sistemi che non sia morale. Altri sistemi di che cosa? Altri sistemi di che cosa? Della tangente? Assolutamente. Lei si informi con chi lavora con la grande distribuzione per vedere cosa deve fare. No, ma chiedevo perché lei ha detto non ci sono altri modi rispetto a che cosa. Ecco, volevo che lei precisasse che cosa. Cioè la tangente è l'unico modo. È l'unico modo. E allora succede che se devi portare a casa il pane, o obtorto collo ti adatti, oppure moralmente non lo fai e in breve tempo tu sei fuori, perché il problema è anche quello degli altri. Dice, va bene, io ho acceso tardi la radio e non ricordo il nome. Ostellino forse? Sono Piero Ostellino e Bruno Tinti. Purtroppo se qualcuno fa tanto il moralista, salga in macchina con me, usciamo una settimana e poi mi dice cosa deve fare. Allora, Claudio, rimanga con noi, perché insomma è il classico caso in cui un ascoltatore diventa una testimonianza preziosa. Piero Stellino, il nostro ascoltatore, che tra l'altro fa parte insomma, del settore, è un pragmatico oppure è una persona che ha a che fare con il male, come dice lei, e ne viene a patti perché o così oppure non lavora, oppure è una persona che compie dei reati e lo dice in maniera manifesta e quindi sbaglia? Ma il male rimane il male, non è che diventa bene. Il male, appunto, la tangente, continua a essere una cosa che non va bene. Però può essere, come direbbe Machiavelli, tra virgolette utile, può essere ritenuta, in questo caso dal nostro ascoltatore, utile, tra virgolette. Che non vuol dire che viene trasformata in un bene, viene trasformata o viene considerata o ritenuta dal nostro ascoltatore, ma comunque diciamo così oggettivamente, viene considerata utile, cioè ai fini del raggiungimento sì, di un... ha una sua utilità, porta a un obiettivo. Male. A questo punto Titti ha perfettamente ragione quando dice ma la legge, ma la legge presuppone un mondo che non c'è, e cioè qualche cosa che noi vorremmo che fosse. Il mondo non è quello, il che non significa evidentemente che il mondo sia meglio. Il signor Tinti, magistrato, non applichi la legge. Diciamo piuttosto che l'idea di fare delle leggi che presuppongono che il mondo dovrebbe essere come noi ci immaginiamo, cioè di gente pulita, onesta, che non dà tangenti e che piuttosto non fa affari piuttosto che pagare una tangente, è un mondo che non esiste. Quindi noi dobbiamo fare i conti con quel mondo lì. Utopico. Ce l'ha insegnato Machiavelli. Bruno, non siamo un'armata Brancaleone. Bruno Tinti, lei si sentirebbe di dire che cosa al signor Claudio che l'ascolta e che ci ha detto... Sì, ho sentito cosa ha detto. Salga in macchina con lui una settimana, lei che ha fatto una puntata. Facciamo una cosa, andiamo a rapinare un supermercato, perché per portare a casa il pane... Se non c'è altro sistema, perché c'è la crisi, perché non c'è il lavoro, rapiniamo, rubiamo, uccidiamo, è l'unico sistema. Poi dopo un po' lo faranno tutti e diventerà quel male tollerabile di cui sta parlando il dottor Ostellino. Ma non vi rendete conto che ogni volta che si ammette, invece cause di forza maggiore possono portare alla violazione della legge, si dà un colpo alla struttura di uno Stato civile, che non si può vivere in questo modo. Immaginate per esempio il numero chiuso all'università, tutti quanti fanno il loro bravo concorso, poi arriva quello con la busterella e riesce a passarti davanti, è una bella cosa. No, ma guardi, ma, cioè, certo, ma lo stesso diventerebbe normale. Tinti, però lo stesso Tinti, però lo stesso Stellino, dicendo che c'è il male, non in un discorso anche filosofico, non è che sdogana il male in bene, dice ma che non me ne importa niente, io dico che bisogna perseguirlo. Di tutti quei, perciò dico che è un discorso mistificatorio. Cominciare a dire ma sì, non è bene, però insomma non si può fare diversamente, sì, ma riconosco che è male, significa in qualche modo accettarlo. Adesso, Ostellino ride, ma prima di tornare da Ostellino... Per Tinti, un mondo civile è un mondo fatto di uomini buoni, ma non esiste quel mondo lì. Nel mondo ci sono anche i cattivi. No, ma lui rivendica, onesti, rivendica lui di... bisogna fare i conti con quelli. Però Ostellino, ma che razza di modo di ragionare. Ostellino, lui rivendica il diritto di poterli perseguire fino in fondo gli uomini cattivi, quelli. Però fatemi sentire Claudio, che è con noi sempre dalla provincia di Venezia, che ne pensa Claudio di questo? Dicendo che io non intendo omologare questo comportamento, ha capito? Il problema è che noi ci troviamo di fronte nella stragrande maggioranza ad altri concorrenti che accettano certe regole del gioco. Allora Qui le cose sono due. Guardi Claudio, è un po' come mi faccia fare un paragone sportivo, è come quando Schwarzer, il nostro marciatore, è stato preso e ha detto ma in Russia si dopavano tutti e quindi io se volevo vincere dovevo stare a quei livelli. Insomma il discorso che lei ha fatto un po' è così. Ho capito, ma le sto dicendo che purtroppo qui siccome io posso anche, come faccio, rifiutarmi di fare certi passaggi, ha capito? Però i successi sono quelli che sono. Io l'ho scritto l'altro giorno, Finmeccanica paga tangenti eccetera, ma non è solo Finmeccanica, è il sistema che gira così in tutto il mondo. Poi qui si è innescata l'egoismo dell'uomo. Sì, però il passo successivo. Questa corsa all'oro, no, e chi più paga più porta a casa gli ordini. Capito, ma allora, dire fan tutti così. Le aziende chiedono professionalità. La professionalità la buttiamo nel cestino. Noi dell'usanza abbiamo fatto la certificazione di qualità di T58 con certi quality, dove c'è un codice deontologico, ci sono delle regole eccetera, ma io non posso sapere cosa fa lei in camera da letto con sua moglie stanotte. È chiaro Claudio, è chiarissimo. Qui c'è uno scontro tra il Ostellino. Perché lei rideva prima sul discorso di Tinti? Ma ridevo perché Tinti fa parte di quella corrente, diciamo così, della magistratura, diciamo quel certo modo di pensare della magistratura, in base al quale si pensa che un mondo civile sia un mondo dove tutti non tradiscono la moglie, sono per bene, non danno le tangenti, recitano dei paternostri quando devono fare politica e via di questo passo. Il mondo non è così. E quindi quando il signor Tinti applica una legge che tiene conto dell'ipotesi che il mondo dovrebbe essere così, fa semplicemente il suo mestiere, ma quando lo difende è fuori dalla realtà, punto. Cioè, a questo ma punto, guardi che, non credo che Tinti vorrebbe un mondo perfetto. Deve uscire da questa logica, il che non vuol dire non applicare la legge, ma vuol dire porsi il problema di come e dove opera, tutto lì. Ma Tinti, lei vuole il mondo perfetto? No, non ci credo. Lei ha detto che sono discorsi mustificatori. Questo sta dicendo che la convenzione OCSE la dobbiamo buttare nel cestino, perché non ci fa comodo, come se questa legge impersonale che cita Ossellino in realtà non fosse la legge del 2000, che in applicazione di una convenzione internazionale tra i 29 paesi più industrializzati del mondo ha stabilito che la corruzione internazionale deve essere punita. Ma che discorso è il mondo perfetto? Che c'entra? Il mondo perfetto non c'è effettivamente. No, comunque io mi fermo qui, detto che adesso Simone Spezia continuerà, insomma, sul tema San Manettino. È stata la giornata sia a livello politico sia a livello che riguarda i nostri manager, le nostre imprese, insomma, tutti i giornali titolano così: finanza e scandali, il giorno degli arresti, torna Tangentopoli. Questo è il tema che è deflagrato in campagna elettorale. Vi ringrazio Piero Ostellino e Bruno Tinti, i saluti da parte di tutta la redazione: Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Peter Bescapè in regia. E vi ricordo di seguirci anche su Twitter, Alino Milan sono io, 24 mattino la trasmissione, e ci troviamo domani, no domani, oggi è venerdì, lunedì alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.